in realtà produrre più macchine. E tra l'altro avrebbero anche una programmazione più certa, perché questo tipo di cambi di intere flotte, diciamo, non segue le logiche del mi sveglio la mattina o voglio no di cambiare l'auto. Esatto. Ecco, no? La difficoltà è qui che comunque le casse automobilistiche si dovranno adattare a questo cambiamento del loro business model, in un certo senso, che dovrà fare più attenzione a questi modelli di avere una macchina come una infrastruttura, come un servizio che viene offerto agli utenti finali, invece che un prodotto che viene venduto. Grazie Emilio Frazzoli. Prego, è stato un piacere essere con voi.